Allora, grazie a tutti di cuore, a tutti e a tutte di essere qui con noi stasera. Questa presentazione sarà una presentazione un po' smart e anche un po' veloce, un po' fast per motivi pratici. Ecco qui a Cuneo e del volume di Monsignor Antonio Stagliano. Domani però ci sarà una presentazione di alto profilo e anche insomma interessante e ben strutturata al monastero di San Biagio di Mondovì, quindi siete caldamente tutti quanti invitati e se conoscete persone interessate, ecco, Monsignor Stagliano sarà ancora con noi anche domani. Io dunque prima di tutto devo ringraziarlo di aver accettato l'invito della tenda dell'incontro per essere qui con noi a Cuneo e a Mondovì a presentare il suo ultimo libro. Abbiamo sperato fino a qualche giorno fa che il libro fosse presente non solo in spirito ma anche diciamo corporalmente, ma non è stato possibile per motivi legati al fatto che sta per essere pubblicato ma non è ancora accessibile e disponibile. Naturalmente ci impegniamo anche con gli amici della libreria Stella Maris di Cuneo a far sì che alcune copie poi arrivino e siano disponibili per tutti coloro che sono interessati ad avere una visione diciamo sintetica ma anche una visione panoramica di tutta la produzione, tutto il lavoro straordinario che il Monsignor Stagliano ha fatto negli ultimi anni appunto sul versante della pop theology. Che è una parola, come sapete, la pop theology è un'espressione abbastanza alla moda, ecco, questo potrebbe già essere una cosa che per squalificarla non è così, ecco, diciamo, il senso del termine pop va inteso in un senso molto serio e che è poi quello, insomma, si potrebbe usare questa espressione di pasoliniana memoria, no? Quando Pasolini insisteva sull'importanza della cultura popolare negli anni 50, 60 del Novecento, esprimeva diciamo il senso della necessità di non liquidare un patrimonio importante del passato. E oggi qual è la cultura pop di oggi? Ecco, questo si potrebbe chiedere a Monsignor Stagliano, quella dei giovani soprattutto, quella del mondo giovanile, che lui in questo libro, ma anche nelle altre pubblicazioni precedenti, ne cito solo alcune, Sulle note di Dio, pubblicato da Rubettino, e anche Credo negli esseri umani, che è pubblicato invece da Rubettino, sempre, sempre Rubettino, e poi naturalmente la produzione con Rubettino. C'è ancora un altro, Pop Theology per giovani, autocritica, sì, del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano. Sì, questi erano i tre volumi, sì, con Rubettino, capito. E però diciamo vi racconto, dico solo due cose sul signor Stagliano perché altrimenti diventerebbe lunga. Il signor Stagliano è un teologo diciamo accademico, che ha avuto una formazione in Germania, ha studiato Rosmini, ha studiato l'Università di Friburgo, e il discorso sarebbe molto lungo, ma prima ancora si è formato alla scuola di Milano con grandi maestri di alcuni dei presenti anche, no? Colombo, Sequeri, eccetera. Quindi un percorso molto ricco, ma è un percorso diciamo che lo ha condotto a un certo punto, ha pubblicato testi anche di grande livello scientifico, a porsi il problema di come far sì che la teologia accademica non si chiudesse a Riccio, nella Turris e Burnea, ma si aprisse in direzione del vasto mondo, no? Che i segni dei tempi ci propongono, no? In particolare direi del mondo giovanile, anche facendo uso di nuovi linguaggi, no? Sicuramente il linguaggio dell'immaginazione, dell'arte, della creatività, ma anche il linguaggio della musica, ecco. E qui penso, poi lo dirà lui, il suo percorso ha anche incontrato per tanti aspetti quello di Monsignor Pierangelo Sequeri, eccetera, che da molti anni lavora su questi temi. Quindi siamo qui per diciamo chiacchierare un attimo con lui e per chiedergli anzitutto due o tre cose su questo libro. E tra l'altro recentemente ha pubblicato anche quest'altro volume di Pensare al pensiero, che ha un carattere un po' diverso, nel senso che si occupa di più del confronto con le scienze, con la fisica, ma anche con i saperi, no? È sulla vocazione sapienziale della teologia. Aggiungo solo una cosa, prima di dargli la parola, Monsignor Antonio Stagnano dal 2022 è presidente della Pontificia Accademia di Teologia, che è un'istituzione antichissima, nel senso che è nata, si è fondata mi pare nel 1718, e che ha però sta conoscendo una nuova giovinezza, perché giustamente durante il pontificato di Papa Francesco ha ricevuto in qualche modo l'incarico di preoccuparsi in modo molto più attivo, appunto, non diciamo della divulgazione, perché sarebbe un termine improprio, di far sì che la teologia diventi patrimonio di tutti, a tutti i livelli. E qui dico una cosa interessante: noi qui viviamo con la tenda dell'incontro, con la Casa Don Menore Italia, del Monastero di San Biagio, con una serie di altre realtà, delle esperienze di, appunto, di disseminazione di percorsi teologici sul territorio, in luoghi diversi, eccetera, biblici, teologici, eccetera. E questo è quello che lui, insomma, intende fare, e lo dice apertamente, cioè far sì che quasi ovunque, no, nascano gruppi teologici, non tanto, non solo nelle parrocchie, ma in realtà anche diverse, perché il cristianesimo non sia, diciamo, non resti patrimonio di pochi, ma non diventi neppure semplicemente qualcosa di convenzionale, di freddo, di astratto o di legato al catechismo nelle sue dimensioni più, come dire, più culturalmente meno accorte. E noi stiamo cercando qui, lo dico con Andrea, con tutti noi, di fare qualcosa in questa direzione, proporre percorsi, momenti con personaggi diversi, eccetera. Quindi credo che la sua presenza qua sia preziosa anche per questo motivo, uno stimolo, ma anche la possibilità di vedere che sul territorio di questo nostro paese vasto, contraddittorio e complesso, c'è anche qualcosa che si muove, ecco, a diversi livelli. E quindi la prima domanda è: com'è che Monsignor Stagliano, dalla teologia accademica, eccetera, è arrivato alla pop theology, no? Ha rischiato in questo senso? Sì, anzitutto io ringrazio per l'invito, saluto Sua Eccellenza, tutti voi, e mi chiedevo mentre tu parlavi se questa vostra esperienza non potesse qualificarsi anche come un cenacolo teologico che la Pontificia Accademia di Teologia sta cercando di costruire e di realizzare un po' in tutto il territorio nazionale, potremmo dire, poiché la mission della Pontificia Accademia di Teologia è internazionale, potremmo dire mondiale, pontificia, siamo dappertutto, anche in Europa. Primi tentativi si stanno facendo a Lussemburgo, dove esiste già una struttura non proprio di facoltà teologica, ma di istituzione teologica abbastanza forte, che come ombrello aggrega in sé tantissimi altri centri teologici. Qual è appunto l'idea? Probabilmente l'idea di un cenacolo teologico, quello che voi già state realizzando, no? Che ne verrebbe a voi se vi identificaste anche come cenacolo teologico e poteste entrare anche nella rete della Pontificia Accademia di Teologia? Ne deriverebbe che dentro la grande famiglia e dentro le connessioni, le sinapsi neurali, ecco, del cervello, ciò che viene stimolato, no, se messo in collegamento da una parte può essere d'aiuto altrove, e quindi si può creare un rapporto di dare e ricevere. Voi potete esprimere anche la Pontificia Accademia di Teologia in quello che continuate a fare, nel frattempo potete anche avvantaggiarvi, no, delle risorse che la Pontificia Accademia di Teologia ha per i vostri incontri, no? Mettendo a disposizione teologi vari e faticando di meno, se si vuole, certo, nel fare già quello che fate, oltre che dentro una rete come questa, quello che voi fate poteste anche farlo, non dico meglio, ma ampliarlo, diffonderlo. Credo questo sia una possibilità. Ad Theologiam Promovendam è una lettera apostolica con cui Papa Francesco approva i nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia e permette proprio di pensare attraverso l'interlocutore referente a una connessione organica di gente che lavora come voi alla mission della Pontificia Accademia di Teologia, che Papa Francesco vuole essere anzitutto una mission sapienziale. Non so se voi ricordate l'insistenza con cui Benedetto XVI per tanto tempo, sempre, è un refrain del magistero di Benedetto XVI, anche quando era Josef Ratzinger e elaborava il magistero di Giovanni Paolo II, proponeva Benedetto XVI di allargare in senso sapienziale i confini della razionalità umana, della ragione umana. Perché? Perché, come già in Fides et Ratio è abbondantemente dichiarato, la ragione umana non è qualcosa, come dire, di astratto che se ne va in giro, dice ecco lì la ragione umana, la ragione umana di Kant, la ragione umana di Feuerbach, la ragione umana di Sequerio. La ragione umana è l'essere umano che pensa e che ragiona. E allora bisogna intendersi su che cos'è pensare. Was ist denken? Cos'è pensare? No? Proponeva Martin Heidegger. Nel frattempo noi abbiamo anche la spinta che viene dal mondo scientifico e soprattutto da certo riduzionismo, no, delle scienze che adesso si stanno imponendo, pensiamo alle neuroscienze, che sono nel loro riduzionismo tendenzialmente portati a pensare, quindi a dire che tutto ciò che accade nel cervello umano, nel cuore umano, nel corpo umano, sia non tanto riconducibile a basi biologiche o a sinapsi neurali, perché ne abbiamo nel nostro cervello 100.000 miliardi, no? di sinapsi, ma è riducibile a questo. Una cosa è essere riconducibile, no? Certo, se io mi innamoro, l'oxocitina esplode nel mio corpo, dice eccoli l'amore, l'oxocitina. Allora mettiamo un chilo di oxocitina e quello si innamora. Allora, questo riduzionismo, purtroppo, inspiegabilmente, perché è davvero acritico, esiste in atto. Così come esiste in atto il tentativo di ridurre a specie animale anche l'essere umano, e l'esperienza corporea dell'essere umano, no? L'esperienza corporea dell'essere umano è quella della macchina dell'animale. Cartesio diceva appunto che l'animale è una macchina e distingueva la differenza tra questa macchina che è l'animale e l'essere umano, perché l'essere umano è dotato di pensiero, di res cogitans, però separando la res cogitans e la res estensa tendeva a considerare il nostro corpo come macchinico, come il corpo dell'animale, no? E da qui che si sviluppa anche un certo riduzionismo, per cui alla fine anche l'intelligenza umana è macchinica, no? Meccanica, è una macchina. E allora si capisce perché, da una parte tu riduci l'intelligenza umana al meccanico, dall'altro con la macchina, grazie anche agli sviluppi della meccanica quantistica e della sovrapposizione quantistica dei qubit, riesci a produrre operazioni di calcolo, di computazione, mettendo insieme concetti, parole, frasi, numeri a destra e con una velocità straordinaria che la macchina intelligente umana non riesce a fare. Ed ecco qui i grandi proclami, dice: presto, nel 2025, l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza umana. Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale è artificiale. Però siccome è intelligenza, allora la possiamo rapportare all'intelligenza umana, che si distingue dall'artificiale perché è umana. Però come intelligenza è la stessa cosa, e invece è lì che casca l'asino. Che la macchina non è intelligente, punto. Non è intelligenza quella, punto. Essendo l'intelligenza umana, se tu non riduci l'intelligenza umana a una macchina e la consideri per quella che è, no? intus leggere, leggere dentro, ma dentro non tanto le informazioni che sintatticamente metti insieme, ma leggere dentro nella profondità dei significati che dischiudono, diciamo, orizzonti abissali, perché come abbiamo studiato a scuola c'è la sintattica, ma c'è la semantica. A livello sintattico è certo che l'intelligenza, quella che chiamiamo intelligenza artificiale impropriamente, ma dovremmo chiamare calcolo computazionale ad altissima velocità, chiamiamolo così con il suo nome, è una macchina, calcolo computazionale, calcolo di simulazione a velocità straordinarie, che no? Questo è non intelligenza, ma invece l'intelligenza umana ha a che fare con il sintattico che dischiude l'intus leggere, leggere dentro nel semantico, nel significato, e i significati che sono propriamente la realtà non sono, la bottiglia, anche questo è un significato, è una bottiglia, vedete, è una cosa fisica, no? L'occhio che l'oculista studia è una cosa, diciamo, fisica, ma non è una realtà. Una cosa fisica non è perché tu la tocchi, la osservi e dici questa è la realtà, mentre la poesia che io ci faccio sulla bottiglia, quella è un'astrazione, quella è una poesia, non è reale. È l'esatto contrario. La poesia che io faccio sulla bottiglia dice la realtà della bottiglia più di quanto non la dica l'astrazione scientifica che analizza la bottiglia, mi dice come è fatta, così, l'appeso, misura. Ecco, noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo invertito, no, il senso e il sentimento della realtà. La realtà, per essere davvero reale, è umana. E in quanto è umana, vuol dire che è mediata dal senso e dal significato che il mondo umano, no, realizza, compie ed esperisce. Infatti, non so a cosa servirebbe questo coso qui, no, che io non nomino, se non perché adesso io me lo avvicino e parlo a voi, mica ha un'esistenza autonoma di significato e di senso questo microfono, ci siamo, ecco. Detto questo, voi capite che approfondire l'intelligenza umana e rispondere alla domanda che cos'è pensare, che cos'è pensiero, adesso possiamo dire che ci siamo un po' stufati di immaginare che il pensiero sia il sillogismo di Aristotele, no? Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. La logica, no? Tutte queste cose interessanti si fanno parte appunto del pensiero, ma il pensiero è attraversato dagli affetti, no? Il logos è affettuoso sin dagli inizi. Come nasce il pensiero mentre il cucciolo dell'uomo cresce, no? Dentro l'affetto di papà, mamma, l'affetto della famiglia, degli amici, queste cose qui non c'entrano niente con l'intelligenza, con l'esercizio della razionalità e così via dicendo. Adesso che abbiamo la psicologia del profondo, a un certo punto noi sappiamo che certi disturbi anche della razionalità sono dovuti al fatto che magari venivi picchiato esageratamente dalla mamma, perché uno schiaffo va bene per l'educazione, però se questa qui no, si concentra su di te e proietta su picchiarti lo sfogo dei suoi problemi altrove, poi viene fuori che il giovanotto non riesce a maturare un'esperienza umana in generale, anche del pensiero. Questa idea della ragione pura è una fiction. Ora, una delle tesi su cui abbiamo costruito la Pop Theology è precisamente questa, cioè dobbiamo poter uscire dal metaverso che da 300 anni hanno creato per noi. Da 300 anni alcuni grandi pensatori, che siano stati eterodiretti da altri flussi culturali, vabbè, qui ci sarebbe da studiare, no? Ma hanno creato un metaverso. Noi viviamo tutti in un metaverso e pensiamo che il metaverso sia davvero la realtà. Ma il metaverso è metaverso, è al di là del verso che dovrebbe essere il verso giusto, no? E che è la realtà. Io affronto questo discorso e questo tema dal punto di vista che più mi interessa, perché sono un teologo, no? È vero che mi sono laureato in filosofia, però io mi presento come teologo, no? Soprattutto perché della teologia nessuno sa nulla, nessuno vuole sapere nulla, e de Blasé raccontavo prima qualcosa che mi è capitato proprio in Vaticano. Dice, ma che cos'è? Un signore che mi ha aiutato a organizzare la nuova sede della Pontificia Accademia di Teologia, e da anni che lavora lì a fare questo mestiere, a un certo punto mi ha posto la domanda: ma perché abbiamo dovuto fare questa cosa qua? Che cos'è? Che cosa dovete fare? Poi perché ci deve essere un ufficio? Che cos'è questa teologia? Dica pure, proprio qua me lo dici. Che cos'è? Ed è giusto, perché se la teologia si interessa di Dio, perché etimologicamente è discorso su Dio, il problema non è la teologia, il problema è Dio. Dio, di cui riteniamo di sapere tutto, anche che non esiste, per esempio, no? Lo scienziato che dice Dio non esiste, no, lui sa tutto di Dio. Poiché sa tutto di Dio, può stabilire non esiste. Questa cosa qua, che io lo so, voi so che avete avuto l'incontro con Don Francesco Cosentino, brillantissimo giovane teologo, no, che ha un volumento divulgativo, direi anche divulgativo, non è quel che credi, no? Non è quel che credi. Non è che, ma dire a un ateo non è quel che credi, no? Potrebbe risultare anche facile. Il problema che la teologia si assume oggi è dire ai credenti non è quel che credi. E qui è il discorso di una teologia accademica impegnata a spiegare all'ateo non è quel che credi, no? Entrando dentro tutte le grandi questioni, no? Anche formalizzate della teologia, perché la teologia è scienza, resta scienza, deve restare scienza, però resta scienza subalternata, come diceva San Tommaso d'Aquino, cioè no, scienza subalternata, e anche su questo qui so che ci sono dei teologi, forse tra teologi dobbiamo metterci d'accordo. Io ti ringrazio di aver citato il fatto che più che aver studiato in Germania 2 anni sul proslogio di Anselmo, sono stato formato teologicamente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, e quindi ho avuto come maestri, grandi maestri, Don Giovanni Moglioni, Don Pino Colombo, Pierangelo Sequeri. Ma vedete, questi sono come Cassandra nel mondo teologico, e vengono anche un po' derisi. Ma che si sono fissati con l'epistemologia? Sono fissati con l'epistemologia! E scrivono libri, sempre, incomprensibili, no? Sulla teologia, sul rapporto tra la teologia e gli altri saperi, il tentativo di accreditare il discorso teologico come un vero pensiero critico, no? Di una fede. Udite, udite, qui lavoriamo già sul metaverso in cui siamo, per cui sta parlando un linguaggio controintuitivo. Adesso quello che voi sentite, no? Voi lo recepite come controintuitivo, perché? E perché contrasta col metaverso in cui noi siamo. Questi ci dicono che questa teologia è qualcosa di effettivamente critico, perché è logos, no? E logos è critico, ma è qualcosa di critico che ha a che fare con un sapere. Il sapere della fede, il cui contenuto è la rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Ma chi è che oggi sa o vuole pensare che la rivelazione di Dio in Gesù Cristo sia un sapere? Su questo vorrei intrattenervi, per ripensare il pensiero. Perché anche noi che crediamo in Gesù Cristo e diciamo, ma... E invece ricordo Moglioni che vuole sapere Gesù. Sapere Gesù, io so Gesù, cioè se ricevo la rivelazione in Cristo e vi aderisco credendo, io vengo a sapere. Io vengo a sapere credendo. E allora la fede non è che io mi affido, oh, quanto è bello Dio, Ave Maria piena di grazia, la devozione. No, la fede è che io credendo così, e credendo questa cosa qui, io la so, un vero sapere. Questa cosa qua è fuori da questo mondo, perché è fuori dal metaverso che abbiamo costruito come nostro mondo. Noi viviamo in un mondo che è un metaverso e questa cosa qui è fuori dal nostro mondo. Chi l'ha messo fuori dal nostro mondo? Perché apparteneva al mondo di prima. Prima questa cosa qui era chiara, normale per tutti. Prima che arrivasse Kant e scrivesse prolegomeni ad ogni metafisica futura che voglia presentarsi come scienza, la regina delle scienze chi era? La teologia. La teologia era regina omnium scienziarum. Quando le università sono nate, con Tommaso d'Aquino, la teologia era la regina delle scienze, tutte le altre scienze andavano a lei, no? In venerazione, in adorazione. E perché? Perché la teologia era scienza, ma derivava la sua scientificità, cioè il suo carattere di sapere, da dove lo derivava? Dalla rivelazione di Dio in Cristo. Quindi il vero sapere, l'unico vero sapere, ciò che c'era da sapere, ed era l'unico grande sapere che creava sapere da tutte le parti, sapete che cos'era prima? La rivelazione di Dio in Gesù Cristo, la fede. La fede è il suo sapere. Non è la teologia il sapere della fede. Molti teologi contemporanei praticano l'idea della teologia come il sapere della fede, perché abitando il metaverso illuministico che ha stabilito che il sapere è frutto della ragione ed è frutto della scienza, essendo la teologia la scienza che lavora sulla rivelazione, è lei la teologia in quanto scienza il sapere della fede, non la fede. Ma questo è il metaverso. Questo non c'è, non è così. Da qui il dogma illuministico, che chiudo. La fede crede, poiché crede, non sa, perché l'unico sapere è frutto della scienza e dunque della ragione scientifica, manco della ragione in generale. Della ragione scientifica, solo la ragione sa, poiché sa, la ragione non ha bisogno di credere, non deve credere, perché vedete com'è intuitivo quello che vi sto dicendo? Se tu una cosa la sai, perché dovresti crederla? La sai? Siamo d'accordo tutti? Eh sì, siamo d'accordo tutti, perché tutti abitiamo il metaverso. Se una cosa tu la sai, perché dovresti credere? La puoi credere solo se non la sai. E cos'è questa cosa che non sai? Lo chiami mistero. Il mistero a cui credi quando la ragione che cerca giunge al suo limite e quindi poi non ce la fa, ed ecco che scatta la fede. Anche questa è una cretinata, che pure è dentro la tradizione formativa, anche pastorale, di noi. Tu devi credere, la ragione la devi utilizzare, ma poi a un certo punto la ragione ha un suo limite e dunque, ecco, non è così. Per uscire dal metaverso bisogna diventare rosminiani, rosministi, come il nostro Paolo Eritieri, che è qui, che lavora anche su Rosmini. Dico, perché? Perché Rosmini, contrariamente a quello che diceva Kant, eppure lui è stato chiamato il Kant italiano, dice: caro Kant, la ragione non ha limiti. La ragione umana non ha limiti. Per cui non hai bisogno di limitare la ragione per far spazio alla fede. Kant dice, ho dovuto, per far spazio alla fede, alla tua fede protestante, ma non a quella cattolica. Per far spazio alla fede cattolica, la ragione non la devi limitare. Per far spazio alla fede cattolica, la ragione la devi ampliare all'infinito. Mi spiego? E qui quando si dice che il cattolicesimo pone limiti alla ragione scientifica, è anche un linguaggio improprio. Per il cattolicesimo la ragione non ha nessun limite, perché la ragione è costituita, no, intelligentemente dallo splendore alla mente, no, dell'essere ideale, che per Rosmini è addirittura il verbo stesso di Dio astratto dalla sua divinità, e crea così Rosmini un ponte tra l'intelligenza umana e Dio, per cui in noi, per essere così malconciati, noi esseri umani, poveri, caduchi, impermanenti, quello che volete, in noi esiste come cosa nostra, ma che non siamo noi, una scintilla di Dio, e tanto basta per essere infiniti, per essere illimitati, e così via dicendo. Ecco, vedete, se noi entriamo dentro queste nuove prospettive, ripensando il pensiero, comprendiamo che tutto ciò che con Schleiermacher è stato relegato al sentimento, la religione è sentimento, è il sentimento relegato romanticamente a emozione, a tutta questa cosa qua, emozione, affetti, sentimenti, che costituirebbero, come si dice, la parte soggettiva della nostra esperienza del mondo, invece no, guarda che proprio questi qui, invece di edulcorare la capacità della ragione di guardarci dentro le cose, è proprio l'energia vitale che spinge la ragione a guardare la realtà così come davvero è. Certo, se tu la realtà l'hai ridotta a queste quattro articolazioni di numeri matematici, che adesso velocemente con l'intelligenza artificiale riesci a fare, dico, ah, d'accordo, ma se la realtà è lasciata nella sua grande complessità, profondità umana, e l'amore fa vedere le cose, e Dio c'entra con la vita dell'essere umano e con la sua esperienza umana, perché per esempio è una sfida culturale quella che proponiamo al mondo. La sfida culturale è questa, che il sapere della fede, cioè che tu vieni a sapere credendo in Gesù Cristo, no, ti dice qualcosa di te, poiché ti comunica il vero volto di Dio, poiché nella tradizione ebraico-cristiana noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, è chiaro che il Dio che si rivela, no, e si mostra nella sua verità, dice di me chi sono. E allora, se l'avventura filosofica, umana, sapienziale è gnoti sauton, come c'è scritto all'oracolo di Delfo, cioè conosci te stesso, ma è anche genoion, oios ei, diventa ciò che sei, meden agan, niente di troppo. Sono le tre frasi che concentrano la grande sapienza greca pre-cristiana. Ma diventa ciò che sei. Allora, per diventare ciò che sei, dovresti in qualche misura sapere chi sei, visto che lo devi diventare. Dici, ma se lo so, già lo so. E no, come faccio a diventarlo? Crescere nel sapere di chi sono io, no, è fondamentale nella vita di ogni esperienza umana, no? Chi sei tu? Jean-Paul Sartre dice chi siamo noi, no? In essere e nulla, ci dice, guarda, noi siamo tali che l'amore tra essere umani non è possibile, perché due soggetti non si incontrano mai. D'accordo? Io sono un soggetto, l'altro è un soggetto. Accade però che quando io incontro l'altro come soggetto, la sua soggettività trascende il mio sguardo, la fenomenologia dello sguardo in questo testo di Sartre, per cui io reifico l'altro. Rapporto soggetto-soggetto non esiste da nessuna parte. Per cui l'amore è impossibile, se non nella forma del sadismo e del masochismo. Io oggettifico l'altro, mercifico l'altro, no? Oppure io mi rendo oggetto dell'altro. Questo, e Jean-Paul Sartre dice questo. Gli facciamo un applauso e dice, va bene, adesso piazzati lì. Ma ci sei solo tu? No. Chi c'è? C'è Carlo Marx, c'è Feuerbach, c'è Nietzsche, c'è... E ci sono tutti quanti, no? Gesù no, non c'è. Perché? Perché Gesù, essendo il figlio di Dio, viene creduto da una confessione credente, e quindi casomai se c'è, c'è nelle sacrestie delle chiese, nel tempio, dove i vescovi riuniscono le loro assemblee, fanno il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e così via dicendo, bla bla bla bla, si fanno le loro cose, poi escono per cortesia, nulla si sappia, perché le cose che fate in chiesa Le fate in chiesa in quanto siete credenti, ma fuori dalla chiesa perché dovreste avere voci? Chi vi dovrebbe ascoltare? Per quale motivo devi raccontare al mondo che Dio non è come lo stai credendo tu, come l'hai creduto tu? Interessa forse la vita? Il tema della pop theology è sostanzialmente questo. Siccome questa condizione che ho descritto a livello un po' più alto, no, è materialmente dentro la vita dei nostri giovani, i quali non ci sono nelle chiese, non ce ne sono giovani in chiesa, non ce ne sono, eccellenza, non è che ci possiamo mettere le banane davanti agli occhi. Io sono stato 14 anni a Noto, no? Ho sempre insistito con questo refrain, ma no, non è vero, sei pessimista, che cavolo di pessimismo, non ci sono i giovani nelle chiese, non ce ne sono. E ho scritto un libretto anche di pop theology, dove, però questa volta con l'LDC, no? Perché i libri sulla pop theology sono questi tre con Rubettino, però ce ne sono altri tre con l'LDC. E diciamo, questi sono i libri in cui ho concentrato l'idea della pop theology e, come opere di pop theology. Perché questo testo si chiama Zibaldone della pop theology? Non tanto perché raccoglie i libri di Rubettino, no, perché quelli sono libri a parte, o della... No, perché mi è venuto in mente lo Zibaldone di Leopardi, capite bene, e Leopardi, mentre scriveva le sue opere, no? Ovviamente le sue erano opere eccelse, le mie sono cosette, d'accordo? Però, dico, l'esperienza ognuno la fa come la sa fare, la può fare, è vero? Però mentre Leopardi scriveva L'infinito, no? Scriveva nello Zibaldone tanti pensieri vari, no? Che costituiscono come il grembo, no? Da cui poi nasce l'opera d'arte. Se noi guardiamo all'infinito come opera d'arte, no? Possiamo interpretarla adeguatamente se andiamo allo Zibaldone. Cioè, mentre Leopardi scriveva L'infinito, perché è datato, no? Per esempio, mentre Leopardi cancellava nell'ultima strofa, in questa immensità s'annega il pensier mio, il naufragar m'è dolce in questo mar, lui cancellava immensità e scriveva sopra infinità, e questo testo si vede a Recanati. Mentre faceva questo, ebbene, lo Zibaldone scriveva. Allora, se tu vai nello Zibaldone, probabilmente trovi, diciamo, il grembo sorgivo, no? Di quei pensieri, di quelle riflessioni, di quella cosa, che a un certo punto poi esplodono. E ha ragione Emanuele Severino a dire che Leopardi è un nichilista ante litteram, no? Perché? Perché la siepe tu la puoi interpretare come cavolo vuoi, però se metti in rapporto la siepe dell'infinito con i pensieri dello Zibaldone mentre scriveva L'infinito, tu capisci che la siepe è la morte. La morte concepita da Leopardi come annientamento. Mentre scriveva L'infinito, nello Zibaldone, Leopardi scriveva: sola nel mondo eterno in cui si volve ogni creata cosa, in te morte si posa, nostra ignuda natura. E io percepiva e considerava intorno a me solo nulla, e io medesimo solido nulla. Io sono un nulla solido. Cioè, uno che scrive queste cose qua e poi scrive: sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte mi guarda esclude. Cioè, puoi pensare che la siepe sia un'altra cosa, no? Che non la morte, concepita come annientamento, perché di là della morte non c'è niente. Già che non c'è niente già di qua, anzi noi siamo il niente che esiste, dopo la morte non c'è niente, ma questa percezione è angosciante per la vita. Come faccio a vivere sapendo che mi anniento, vengo annientato dalla morte, specialmente che la morte non è che programmata dopo 100 anni, dopo 100 anni, può arrivare, questi tre ragazzi poverini, questi tre ragazzi che sono annegati, cosa, è spaventoso, io ancora interiormente piango, dico ma come è stato possibile? Giovani così che esplodevano in bellezza, in energia, spariti così per una cretinata che hanno fatto, magari inconsapevolmente, non si dice, questi giovani non capiscono niente, vanno, non hanno visto, no, sono andati là, d'accordo, e sono spariti, ma vivere così è angosciante, allora io aderisco alle dolcezze della religione, la religione che è un'illusione, non è un sapere. Scusa, se una cosa non è un sapere, che cosa sarà? Cosa c'è fuori dal mondo del sapere? La doxa, l'apparenza, l'illusione, un'apparenza che non è sapere, che non è, è un'illusione. Allora, questi, le religioni mi dicono che no, che dopo la morte ci sono, c'è il paradiso, che, e io che cosa faccio? Siccome sono una persona intelligente, lo so che dopo la morte non c'è niente, però non voglio vivere questa angoscia fin quando non muoio, allora che faccio? Sì, io credo alle cose che il mio pensiero si può fingere, io nel pensiero mi fingo, ove il corpo il porno si spaura, io nel pensiero mi fingo, le finzioni della religione che rendono la mia vita meno disperata e soprattutto rendono il mio sicuro naufragio dolce, e il naufragarmi è dolce in questo mare di illusioni, e nello zibaldone ci sono i pensieri da cui fiorano. Allora, siccome questi 21 volumetti della collana Teologia per tutti, no? Sono nati durante gli anni del mio episcopato, a Noto, no? Dei volumetti in cui ho cercato di pormi questo interrogativo, ma com'è che questi grandi contenuti teologici che la teologia del XX secolo ha scoperto li possiamo rendere accessibili anche alla gente che va in chiesa, al popolo di Dio, no? Ecco, il popolare, il pop. Ma guardiamo soprattutto ai giovani, questo libretto che stavo citando di LDC, chiese giovani più fuori che dentro, pongo la domanda fatidica: chi ha abbandonato chi? La chiesa ha abbandonato i giovani o i giovani hanno abbandonato la chiesa? È evidente che la chiesa ha abbandonato i giovani. Perché? Perché? I giovani se ne sono scappati perché la chiesa li ha abbandonati. In che cosa consiste l'abbandono della chiesa per i giovani? Cioè ci siamo messi in testa noi vescovi, noi prediti, abbandoniamo sti giovani che rompi palle, che sono sti giovani fuori, fuori, state rompendo l'anima. No, l'abbandono della chiesa dei giovani è che la chiesa tuttora non ha un linguaggio, no? Per parlare a loro rispetto a ciò che loro vivono nell'esperienza del mondo che fanno. E da lì ho approfondito una domanda: dove sono i giovani che non ci sono più in chiesa? Attenzione, anche quei giovani che sono dentro la chiesa, ahimè, mica sono tutti Carlo Acutis. Fossero Carlo Acutis oppure anche all'8 per mille, Carlo Acutis, ci basta l'8 per mille che è un sistema di misura a noi molto noto, è vero? Dico, se fossero all'8 per mille, Carlo Acutis, ma nemmeno l'8 per mille, a quanto per mille? Non lo so. Ma vi pare a voi che i giovani che si trovano nelle chiese, come giovani, come gruppi giovanili, fanno cammini di fede perché vogliono incontrare Gesù di Nazareth che nella sua bella e buona umanità diventa il modello della... Ma il giovane di oggi, anche cattolico, la giovane per esempio, sì, va ancora in chiesa, resiste chissà per quale grande mistero, e qui c'è l'opera dello Spirito Santo, perché non si capisce per quale mistero questa continua ad andare ancora in chiesa se nella sua stanza c'è Belen nuda. No? Per cui Belen è un modello di vita, oppure sono follower di Chiara Ferragni e di tutte queste cose qua, così via dicendo, e sto ore intere a vedere le porcate che fanno, no? Questi influencer, nel frattempo però vado a messa la domenica, e quando il parroco mi chiama e facciamo la preghiera, sì sì, sono disponibile pure quando vado a fare il volontariato e così via dicendo, sì, però dove lo passo il tempo? Il tempo lo passo con gli influencer, il tempo lo passo a farmi eccitare da questi allucinogeni di cui Nietzsche parlò, quando in Così parlò Zarathustra. A un certo punto dice, rispetto a Gesù, Gesù è venuto e ha detto: io sono luce del mondo, io sono sale della terra. Ebbene, Zarathustra dice: io non sono luce, io non voglio essere luce, io sono bagliore, fulmini della mia salvezza, accecateli tutti. Qui c'è un'operazione di accecamento della coscienza universale in nome delle leggi fabbricate nell'ipermercato, dove l'orientamento è mangio, consumo, consumo, mangio, mangio, consumo, dunque sono. Non c'è più dubito, penso, ergo sum. Adesso c'è mangio, consumo, compro, dunque sono. Se non mangio, non consumo, se non posso comprare, non sono niente. E questo è una percezione corporea. I nostri giovani possono essere belli, intelligenti e tutto quello che volete, ma se non hanno i soldi in tasca dei genitori, non valgono un fico secco nell'ipermercato. Nella chiesa no. Quindi i giovani dove sono? Realisticamente parlando, i giovani sono dietro i loro cantanti, negli stadi, no? Negli stadi, provate voi a vedere tutti questi cantanti, grazie a Dio ce ne sono tanti, no? E quando fanno i loro concerti, sì, noi vantiamo che quando c'è il Papa c'è, no, il meeting dei giovani, Giovanni Paolo II, ma non c'è storia rispetto ai concerti di Vasco Rossi, di Marco Mengoni. Adesso stanno creando questo grande personaggio di Angelina Mango, no, che ha vinto con la Noia e così via dicendo. Se voi andate là, vedete che sono 100.000, ma non è questo il problema. Il problema più grave è che questi 100.000, mentre attendono il cantante che arriva, sono in silenzioso, adorante silenzio, e non vedono l'ora, attendo che questo compaia. Vedete, se voi vedete certi film, certi filmati, questo è l'atteggiamento dell'adorazione eucaristica, portare la bocca alla bocca dell'altro. E fremono, e deserva quando arriva, perché hanno pagato un biglietto, magari hanno fatto un viaggio di 300 chilometri per arrivare là, comprendi? Ma per la messa domenicale c'è qualcuno di noi che ci pensa magari il giorno prima, dice: domani è il giorno del Signore, non vedo l'ora che arrivi domani, che incontro Gesù, ascolto la sua parola, sta roba qua, è finito il desiderio. Ecco perché desiderio desideravi, dice, la cosa più bella del mondo, se noi spegniamo il desiderio della cosa, poi ci vado lì alla cosa, la domenica, ma se ho spento il desiderio, quella cosa che vivo la domenica è alienazione cruda. E infatti Gabbani, in una canzone Amen, chiama i cattolici a stemmi in comitivico per l'infelicità, la messa ormai è finita, figli andate in pace, cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace, e allora avanti popolo che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con un amen, amen, amen. Dal ricco in Lucca ascetico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen, amen, amen, amen. Ti preghiamo Padre Onnipotente perché i migranti che vengono sulle nostre coste possono essere accolti con gratitudine e speranza. E tutti rispondono: ascoltaci Signore. Pure i leghisti eventualmente, che ovviamente hanno una teoria, oppure pure i cattolici che votano giustamente Lega, che dicono: no, qua è così, è così. Oh, io adesso non sto facendo nessuna una dichiarazione di voto, ma sto indicando un trend culturale. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, perché tutti questi ammalati di SLA possono trovare gente che vada loro e li aiuti, e possono trovare la consolazione che solo tu puoi dare a loro. E tutti rispondono: ascoltaci, Signore. Però finita la messa è finita, andate in pace. Quel film, La messa è finita, di no, la dice bene, quello lì alla fine dice: guarda, la messa è finita, io non riesco a fare più niente con voi. Perché? Perché abbiamo ridotto il sacramentum del Signore nostro Gesù Cristo, no? L'abbiamo ridotto in un rito sostanzialmente insignificante, che probabilmente soddisfa e realizza la critica dell'alienazione religiosa che Carlo Marx ha inflitto alla religione in generale, nemmeno urticando però il cattolicesimo, perché il cattolicesimo è sociale. Marx, Freud e Nietzsche avevano davanti il pietismo religioso di fine Ottocento. Ma la critica è questa: che cos'è la religione? È l'oppio dei popoli, è l'anima di un mondo senza cuore. Vedi? L'anima di un mondo senza cuore. Io mi sono permesso di scrivere a Santo Padre: Santità, ma non è che andando a parlare di temi come l'intelligenza artificiale e altri ancora, che bisogna appunto parlare, noi poi dopo diamo un messaggio tipo che la Chiesa Cattolica è l'anima di un mondo senza cuore, no? L'intelligenza artificiale è così rarefatta, così disumana, anche per la sua stessa velocità, perché non ha bisogno di tempo. Umanamente abbiamo bisogno di tempo, no? Dico, così disumana, e allora noi con l'etica ci mettiamo un po' di umanità, e quindi la Chiesa Cattolica predica l'algoretica di Padre Benanti, benissimo, predica l'algoretica, ma se Chiesa Cattolica non deve predicare solo l'algoretica, deve predicare la teologia, non l'etica. Perché se predichiamo soltanto l'algoretica, ci proponiamo al mondo e alla società, nelle prospettive del Concilio Vaticano II, come appunto il supplemento etico di un mondo che dice: ma io l'etica ce l'ho io, perché me la devi dare tu? Il cielo stellato è sopra di me, la legge morale dentro di me, l'etica già ce l'ho io, me la devi insegnare tu l'etica, l'etica mia, l'etica umana, l'etica razionale, che c'entra estetica, che ci verrebbe dalla fede. Ma se noi, che abbiamo sicuramente una teologia da innervare dentro l'etica, non riusciamo a dire il fondamento teologico, noi parliamo il linguaggio dell'etica, che è il linguaggio di tutti. E giustamente loro ci dicono: ma perché me lo devi spiegare tu? La so io per me, per conto mio. Quindi la Chiesa non si può presentare come il supplemento etico di una società allo sbando, l'anima di un mondo senza cuore, men che meno, per l'esperienza religiosa di tutti noi, il sospiro della creatura oppressa. Effettivamente ci troviamo tutti dentro questo stress, dentro questa depressione, no, globalizzata. Anche gli psicologi dicono che non ci credono, e andate in chiesa, così vi fate un canto, alleluia, alleluia, alleluia, e vi distraete un pochettino psicologicamente, vi date un po' di carica, e questo sarebbe la partecipazione all'Eucaristia Domenicale. Il sospiro della creatura oppressa, come spesso si sente. Io sì, c'ho tanti problemi, tante cose e così via dicendo, però quando vado in chiesa, almeno in quell'ora, non penso a niente, non ho problemi. Ma come, in quell'ora dovresti portare tutti i problemi che assillano te e tutti gli altri lì, e mettendolo su quel pane, sull'altare, pane e vino, farli trasformare in corpo e sangue di Cristo. Poi una volta che si trasforma in corpo e sangue di Cristo, si accende un fuoco dentro di te, quando esci fuori, altro che astenin come ti dico, per l'infelicità. Questa è una critica aggiornata della critica di Marx contro il cattolicesimo. E speri nei miracoli. I miracoli falli tu. Speri nei miracoli. Cioè, speri nella potenza, nella forza che Dio ti dà per aver mangiato questo sacramento, che tu adesso puoi fare i miracoli. Perché Dio non fa miracoli senza di te. È la fede il grembo di ogni miracolo, la fede che è appunto immersione, immedesimazione, in che cosa? Nell'esperienza che lo Spirito Santo che ci inabita rende possibile nella vita degli uomini. Diversamente che cosa succede? Succede che non è quel che credi, lo devi dire soprattutto a te, E così tendo a concludere. Come si fa a dire a questi ragazzi, a questi giovani di oggi che non vengono più in chiesa, no? E quindi non hanno nessuna connessione con te. Ma questa connessione con te non è la questione che se tu fai una gita magari quelli non vengono. E quelli vengono, fai la gita, dici ma io ce l'ho, abbiamo fatto la gita, c'erano tanti giovani. No, non hanno più nessuna connessione con te perché le cose che tu come chiesa non puoi non dire e devi dire, e cioè Dio è amore, Dio è solo amore, no, queste cose non interessano più ai giovani. Ed è vero, Don Armando Matteo, che voi avete avuto, forse avrete, ha scritto La prima generazione incredula. Questo è un fenomeno strano, evidente. I millennials, quelli nati dopo il 1999, sono tutti atei. Tutti atei. E adesso, come dice, come era quelle indagini che hanno fatto in America, la cosa è peggiorata, perché una cosa è l'ateismo di chi dice no, non voglio saperne di Dio perché Dio non esiste. Un'altra cosa invece è peggiorata con l'indifferentismo religioso. Non mi interessa. Cioè non mi interessa nemmeno pormi il problema, esiste, non esiste, mi può servire, non me ne parlare, per così, non me ne parlare. E allora voglio dire, come si fa ad agganciare questi giovani? Con tutto il rispetto che l'altro ieri un arcivescovo importante della Chiesa Cattolica, l'altro ieri, diciamo, un paio di settimane fa, ha fatto una conferenza stampa, e una giornalista dell'ADN Cronos ha fatto a questo arcivescovo importante, ma lo posso dire, è pubblico, a Fisichella, no? Ha fatto un'intervista, una domanda, dice, ma la pop theology, perché si parlava di queste cose, la pop theology potrebbe essere non è una panacea. Io dico che la pop theology, se siamo nel deserto, è come la manna. Se siamo nella condizione della schiena del formidabile monte Sterminator Vesevo, di leopardi, e quindi la distruzione totale della lava che esce fuori dal Vesuvio, la pop theology è la ginestra. La ginestra, mi spiego. Ebbene, a questa domanda la Fisichella non ha avuto nessun problema a dire no, la pop theology è qualcosa di effimero. Cioè, noi dobbiamo comunicare ai giovani cose serie. E che cosa di grazia? Gesù Cristo e questi crocifisso. Bravo, facciamo un applauso. Però poi ha detto, è vero che un giovane di oggi la nostra lingua non la capisce più, e quindi dovremmo trovare dei modi per parlare a loro. E di grazia, dico, tu sei 30 anni a questo dicastero, l'hai proposto qualche cosa? Mica adesso i giovani non ci capiscono più, mi spiego? Però, ecco, io dico, nel manifesto della pop theology, che qui voi avete, no? Nel manifesto della pop theology, mi pare al punto 4, cioè dice, ma la pop theology si impegna eticamente. Eticamente vuol dire ne fa un dovere morale. Cioè le cose belle che la teologia scientifica ha acquisito, no? Come per esempio l'astrofisica o la meccanica quantistica, ma è un dovere morale. Ciò che la meccanica quantistica ha scoperto, ma perché deve essere messa a servizio soltanto di questi ricconi, no? Che utilizzano poi con l'intelligenza artificiale, vogliono creare cose per farsi lo spazio interstellare. Perché la gente comune non deve sapere di come si sviluppa l'universo in espansione? Ci deve essere qualcuno capace di divulgare, e abbiamo grandi divulgatori scientifici. Vuol dire che tutti i grandi della scienza, lo stesso Einstein, lo stesso Schrödinger, Feynman e così via dicendo, sono stati, Heisenberg stesso, adesso per esempio Carlo Rovelli non è che non sia nessuno, è una delle 100 menti più brillanti che avremo dentro questo catalogo che fanno loro. Sta studiando la gravità quantistica per mettere insieme la teoria della relatività generale di Einstein con la meccanica quantistica. Sta cercando i buchi bianchi che sono già previsti nelle equazioni di Einstein. Pure i buchi neri erano previsti, ma nessuno li vedeva. Adesso li vediamo con James Webb Space Telescope riusciamo ad avere anche immagini anche molto più ravvicinate, più belle, e stiamo venendo a sapere cose che il povero Stephen Hawking, che si è fatto il giro dal Big Bang ai buchi neri senza vedere le tracce di Dio, non aveva visto, no? Oggi li possiamo vedere, la scienza avanza. Perché queste cose non le dobbiamo divulgare? E perché soprattutto le scoperte della teologia del XX secolo non devono diventare patrimonio comune del popolo di Dio? Soprattutto in teologia questo non è solo un dovere etico, come per ogni altra scienza. Per la teologia questo è un dovere teologale, questo è un comandamento a cui devi obbedire. Perché? Ritorniamo al discorso di prima. Se la teologia è scienza subalternata, se a livello scientifico tu scopri qualcosa, che cavolo scopri? L'acqua calda scopri, cioè scopri sempre qualcosa che già c'è nel sapere della fede e che è necessario sapere, perché se no il sapere della fede tu non lo vivi, perché questo sapere della fede non è per il tuo concetto. Il sapere della fede è sapienza di vita e quindi è luce che guida i passi della mia esistenza. Meno conosco il sapere della fede, cioè meno accedo ai significati profondi della rivelazione di Dio, meno vivo, meno mi salvo, meno sperimento il mondo nella bellezza e pienezza di umanità che Dio ha pensato per me prima che il mondo fosse, in Cristo Gesù. Perciò è importante che i guadagni, se ce n'è, della teologia del XX secolo vengano comunicati ai giovani e a tutti, perché poi potremmo scoprire che a causa della non comunicazione di questi guadagni i giovani ci hanno abbandonato. Perché, scusate, i giovani sono stufati di questo Dio che ammazza tutti noi, perché ormai anche nei social, no, ascoltano tutti questi imbonitori, no? Che ce ne sono tanti, no? Ce n'è uno addirittura che ogni tanto vado a vedere che dice, ma e poi per un mese, perché dice cose così nefande, maledice con razionalità e cose. Questo qui sta facendo la colonoscopia al cristianesimo. Sì, sì, no, mamma mia, e dice le cose. Tu puoi sopportare che Kirill, prendiamo un tema d'attualità, puoi sopportare che Kirill abbia pronunciato, lui che è un patriarca, vabbè, non è cattolico, però è un patriarca cristiano, noi riconosciamo l'ortodossia inevitabilmente come esperienza cristiana, figuriamoci. Per cui nessuno può dire Kirill è matto, puoi dire tutto quello che vuoi, ma questo è il patriarca dell'ortodossia russa, che è abbastanza estesa. Kirill ha detto che Gesù Cristo è dalla parte dei russi in questa guerra santa contro l'Ucraina e l'Occidente. L'Occidente effeminato, l'Occidente sodomista, l'Occidente senza valori, l'Occidente che ormai ha perduto il cristianesimo, forse è anche vero, l'Occidente, l'Europa che non vuole riconoscere le radici cristiane dell'Europa, decisamente dice no, no, no, no, no, e questo dice ecco, io sono, no? La guerra santa e Gesù Cristo è dalla mia parte. Tu puoi sopportare una roba del genere? Quando contempli il crocifisso, Gesù crocifisso, puoi sopportare che il Gesù, il crocifisso, quello che non sta dalla parte di nessuno che pratichi la violenza, no? E patisce tutta la violenza del mondo per stare dalla parte sua e dire a tutto il mondo voi venite qui dalla parte mia, perché solo nella parte mia c'è la verità del volto di Dio e quindi c'è la verità dell'uomo. Il mistero dell'uomo è svelato dal mistero di Cristo, perciò non abbiate paura, vi ricordate il grido di San Giovanni Paolo II agli stati, alle nazioni, perché da Cristo voi potete ricevere solo bene per la vostra umanità e speranza per un futuro felice. Mi spiego, noi non possiamo accettare questo, e però non è che come cattolici nella nostra storia nefandezze di questo genere non le abbiamo proclamate e dette, papi guerrieri, e su che basi i papi si sono potuti concepire guerrieri ed essere ancora cristiani, cattolici, nella successione apostolica? Su che base? E sulla base di ciò che tu leggi, ancora preghi nella Bibbia, no? Non preghi con i salmi? I salmi non sono parola di Dio, certo, però perché non le leggi, appunto cristocentricamente? E la teologia del XX secolo ha scoperto il cristocentrismo obiettivo, per citare Moioli. Il cristocentrismo obiettivo dice una verità che questo sapere mi comunica continuamente, e io non so che farmene, ed è il genio del cristianesimo. Noi abbiamo creato, cioè, un cattolicesimo cristiano dal punto di vista dottrinale che non sa della genialità del cristianesimo. La genialità del cristianesimo sta in ciò che Nicea ci ricorderà l'anno prossimo. Colui che è nato 2000 anni fa nel grembo di Maria, lui è prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse, il corpo del Signore, trucidato, violentato, no? E risorto. E prima di Adamo, prima di Abramo, prima che il mondo fosse. È una speculazione teologica. La teologia ha messo in evidenza che questo è nel Vangelo. Tu devi rispettare il sapere della fede, non è che te lo costruisci tu. Ma io non riesco a capire com'è che uno che è venuto 2000 anni fa sta prima di se stesso di 2000 anni fa. Ah, non lo capisci? E chi se ne frega che non lo capisci? Però questo, comincia a dire, è il sapere della fede. E tu non lo devi smentire, d'accordo? Poi entri in profondità e se non lo capisci da te, perché nessuno te lo spiega, no? Che il tempo non è passato, presente e futuro, che il tempo è un'altra cosa, perché passato, presente e futuro serve appunto per organizzarci e ambientarci nel mondo macrocosmico della nostra storia, perché in realtà, no? Il tempo assoluto di Newton non esiste, lo spazio assoluto di Newton non esiste, e Kant credeva che spazio e tempo assoluto erano espressione della ragione pura, della sua grande ragione pura. Ebbene, i meccanici quantistici dicono che il tempo non esiste. Leggete un libretto di L'ordine del tempo di Rovelli, questo teorema non esiste. Se voi guardate Interstellar, no? A un certo punto ti mostra uno che sta cercando di comunicare con la figlia, che è con se stesso mentre prima di partire in quel viaggio che l'aveva portato là dove si trova adesso, e cerca di comunicare. Dice, ma com'è? Sì, perché il tempo è quantizzato, ogni punto dello spazio, anche il tempo qui e il tempo lì, non è lo stesso. Allora, le questioni del tempo, è la domanda di Agostino, cos'è il tempo? È la sua grande risposta, che viene ridicolizzata da uno di Freddi. Dice, ma che risposta è questa? È come se uno venisse all'esame e tu gli fai la domanda e allora gli rispondi, ma professore, se lei me lo chiede, quello che mi ha chiesto non lo so, però se lei non me lo chiede lo so. Perché Agostino risponde così, così il tempo. Dobbiamo chiudere, ma perché? Non siamo dentro una struttura cattolica, stiamo facendo una cosa bella, no? Dobbiamo chiudere. Ecco il tempo, vedi? Il tempo è Cronos, questa dannata cronologia, no? Dipende magari, per so che uno deve giustamente lavorare fino alle 4:30, le cose poi deve andare, d'accordo? No, forse dipende da questo, dico, però adesso qui stiamo vivendo un'esperienza che sostanzialmente non è locale, non è spaziale, pure è fisica, vedete? Perché stiamo lavorando dentro la riflessione, il profondo, il pensiero, e questa cosa qui mi deve permettere di dirla, perché non possiamo chiuderla, no, così. Dico, se Dio è solo e sempre amore, chi ce l'ha detto? Gesù di Nazareth. Ma se Gesù di Nazareth è l'incarnato di 2000 anni fa, lui potrebbe solo dire che Dio è solo e sempre amore da lui in poi, perché prima non era così. Prima com'era? Prima era, non ti preoccupare Mosè, aspetta, il popolo di Israele è già passato di là dal Mar Rosso, quindi come prima l'ho aperto, ora lo chiudo, no? E Dio, Mosè, ma ti sei rincisurlito? Se tu chiudi adesso il Mar Rosso, com'è che li ammazziamo tutti? Non li possiamo ammazzare tutti. Per ammazzarli tutti, Mosè, tu ti devi fidare di me che sono Dio. io li voglio ammazzare tutti, nemmeno uno deve sfuggire, se no da dove si vede che sono Dio? Per cui tu aspetta, che adesso io che faccio? Faccio scemare la colonna di fuoco che tratteneva, metto dentro la mente degli egiziani questa smaniosa voglia di attraversare il Mar Rosso senza timore, e quando tutti saranno lì dentro io ti dico chiudi il Mar Rosso, così in un colpo solo li ammazziamo tutti. Ma scusami un attimo, secondo te posso non ammazzarli tutti dopo che prima li ho già ammazzato tutti i figli primogeniti? A queste donne egiziane io le voglio lasciare sole, senza figli e senza mariti. Così era prima di Gesù Dio. E c'è scritto là. E questi che vogliono fare la colonoscopia al cristianesimo, di queste cose parlano. Saul, tu non sei più re, non sarai più re di Israele. Perché? Che ho fatto? Non lo sapeva Saul. A un certo punto, contravvenendo a un suo decreto contro i necromanti, va dalla necromante e dice evocami lo spirito del profeta. Il profeta viene e dice ma mi hai disturbato, stavo dormendo al sordo dello Sheol. E perché? Cos'è di importante? E senti, guarda che Dio mi ha abbandonato, Dio non viene più con me. Perché? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Dice, ma è semplice, non te lo ricordi che cosa hai fatto? No! Tu, quando hai sconfitto gli amaleciti, tu non hai passato a fil di spada uomini, donne e bambini, non li hai uccisi tutti. Dio vuole che tu li uccidi tutti, non lo hai fatto, hai disobbedito a Dio, dunque via, c'è scritto. Eterna la tua misericordia, perché? È perché hai fatto i grandi luminari, benissimo, alla creazione, ma poi eterna la tua misericordia, perché ancora? È perché hai ucciso Ogre di Basan, sei un re degli Amorrei, e che cosa? Tutti i regni di Canaan, tutti per far posto a Israele, Amaliciti, Ittiti, Perizziti, Cananei, Evei, Jebusei, Ittiti, Madianiti, Moabiti, Gergesei, tutti quanti, fuori, perché? Perché la striscia di Gaza, per diritto divino, deve andare a Israele. Queste fregnacce si sentono ancora oggi. Ma Dio è così? No. E chi lo dice? Gesù. Ma qual è stato l'errore di Gesù? Perché obiettivamente è stato un errore per lui, perché a causa di questo l'hanno messo a morte. Qual è stato l'errore di Gesù? È di aver pronunciato una bestemmia. Bestemmiando ha ucciso Dio. Quali sono i contenuti di questa bestemmia? Ecco, non è quel che credi. I contenuti di questa bestemmia non è sommo sacerdote, senti, guarda che io sono Dio. Gli avrebbero fatto un applauso, avrebbero deriso e lasciato. Questo è un mendicante, dice di essere Dio. Non è io sono il figlio di Dio. E dice, sì, d'accordo, pure io sono un sacerdote, sono figlio di Dio, quello è pure figlio di Dio, tutti quanti. Israele stesso è figlio di Dio. Qual è il problema? E se Gesù si è fatto Dio, non è perché ha detto sono Dio, ma perché ha detto al sommo sacerdote, sommo sacerdote, tutte le maschere che avete messo in faccia al Padre mio, che l'avete reso un guerriero, un sanguinario, un violento, toglietevi dalla testa, il Padre mio non è così, anzi in verità io vi dico, il Padre mio non è mai stato così, questa è la frase, questo è il problema. Se tu dici che il Padre tuo, il nostro Dio, non è mai stato così, vuol dire che tu conosci Dio da sempre, non da adesso che sei venuto nel mondo. Da sempre! Ti fai Dio, uccidetelo. E i medievali hanno visto che su quella croce, dove c'è scritto Inri, quel nome era stato scritto in ebraico, aramaico, no, aramaico, greco e latino. Inri Jesus Nazarenus Rex Iuliorum. E in aramaico Yahweh. Ecco, sta morendo Yahweh. Yahweh è morto. Per cui, con tutto il rispetto dei nostri primi fratelli, grandi fratelli, assolutamente, no? E però, scusate, come ad Abu Dhabi Papa Francesco firma un documento sulla fratellanza in cui c'è scritto: non ucciderai l'anima innocente. Poi ritorna nella Chiesa Cattolica e dice: togliete dal catechismo la pena di morte, perché non bisogna uccidere nessuno, né l'anima innocente, nemmeno quella colpevole. Perché? Perché ogni essere umano, creato all'immagine e somiglianza di Dio, ha un rapporto con Cristo originario, prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse, dunque, ha una santità, una sacralità profonda che è untouchable, è intoccabile. Tu non puoi uccidere nessuno. E così vale anche per il rapporto con l'ebraismo. Mosè scende dal monte con un comandamento: non uccidere, e li ammazza tutti, tranne il fratello però, no? E poi dicono che la mafia sta in Calabria, il familismo amorale sta in Calabria e in Sicilia. Scusa, ammazzi tutti e tuo fratello lo lasci lì, perché tuo fratello non è stato tuo fratello a dare il permesso, c'è scritto pure lì, di farsi il vitello d'oro. Se allora l'idolatria è il vitello d'oro, il protagonista vero, chi deve cadere per primo, è il comandante della banda, mi spiego? Che l'abbia fatto perché, per qualsiasi motivo, però, mi spiego, e invece no, quello resta e gli altri vengono uccisi facendo ingurgitare l'oro della cosa. Ecco, vedete, c'è bisogno di pop teologi, perché abbiamo a che fare con un linguaggio popolare che si abbevera anche del registro linguistico, della musica pop, per mettersi in contatto con il giovane e dire: vabbè, ti canto una canzone, no? Sì, parliamo della canzone che ti piace, metti in circolo il tuo amore. E poi parliamo dell'amore, ritorniamo a parlare dell'amore e proponiamo, ecco, l'amore cristiano come un'effettiva grande alternativa anche a tutte le predicazioni sull'amore che di fatto esistono dentro la società dell'ipermercato. Va bene? Domani si vuole cantare, però, nello spirito giusto, esatto, quello della però sono le 7:10, no? Io credo che 3-4 minuti esatti e non di più possiamo darle a Paolo Héritier, che qui può venire a dircelo proprio 3 minuti 4 minuti, perché Paolo Héritier insieme a Fernando Bellelli è colui che ha introdotto e ha lavorato sul testo della pop theology, cercando di collegare questo progetto di pop theology con quella che potremmo definire l'estetica teologica di Pierangelo Sequeri, che ha fatto la prefazione a questo libro. Ma, grazie, ma io devo dire sono un po' intimorito, perché parlo di fronte a Carlo Isoardi, che è quello che mi ha portato alla teologia con un discorso che ha condotto prima ancora di Pierangelo e di tutti i maestri della facoltà di teologia settentrionale, e con un discorso che a mio avviso faceva esattamente questo, cioè a una generazione che era la mia, che era ancora vicina ai contenuti del cristianesimo, era in grado di comunicare la verità della teologia del Novecento e le sue grandi scoperte antropologiche in un linguaggio comprensibile a tutti, anche a chi non era dentro agli studi teologici, ma con un rigore impressionante. Quindi sono un po' diciamo intimorito da questo, però devo dire che quello che è la mia esperienza di giurista e poi di teologo, perché ho fatto anch'io gli studi alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale una volta che sono diventato professore di filosofia del diritto, devo dire che quello che era possibile fare 20 anni fa a scuola, far venire Pierangelo, far venire Carlo qui alla facoltà di giurisprudenza, beh, oggi non è più possibile, perché il discorso, la verità di quello che ci diceva Antonio è questa, cioè i giovani di oggi non ti guardano, ti accettano perché sei simpatico, però non prendono sul serio quello che tu dici a proposito del cristianesimo, dell'antropologia, dei contenuti. E quindi c'è bisogno effettivamente di una rottura, di un linguaggio nuovo, di ripensare probabilmente i modi di comunicare, di trovare delle forme radicalmente nuove di dialogo. Allora la teologia o la teologia dell'immaginazione deve essere uno scossone, deve essere uno scossone che appunto sulla base dell'altroendam teologia possa effettivamente rompere un muro all'interno del quale, nella mia misera esperienza di professore di filosofia del diritto, in quanto cristiano sono quando vado in università. E quindi grazie a questo tentativo di mettere il dito sulla piaga e di pensare a delle forme di riprendere un discorso. Io non ho altro. Grazie.